a nuoto da Trieste fino all'isola di Ponza. A volte sfuggente e si fa desiderare, proprio così che chi c'ha i denti non c'ha il pane. Che romanticone, le candele nella stanza, per te son tutti ceri accesi alla speranza. La della potenza, con grande dipendenza ed anche a sua infazione. La potenza della poeti da farne digestione. C'è chi la vuole baffa e chi triangolare, chi la cerca tonda per poter farla girare, chi come nave scuola e a chi basta una barchetta. Dice l'intenditore, la sua forma è già perfetta. Corre voce si voglia proibire la sostanza, per gli effetti sul cervello e sulla panza. Ed anche a sua infazione. La potenza della potenza, rovina dei potenti, beato chi è immune. La potenza della potenza, chi ne è immune, chi ne è immune. È la potenza della potenza, chi ne è immune, chi ne è immune. È la potenza della potenza.